Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Con noi ritroviamo Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco, un saluto agli ascoltatori. Allora Gianluca, subito andiamo a vedere qual è l'argomento di oggi. Guarda, oggi parliamo di una questione che sicuramente è molto sentita da cittadini, imprenditori, un po' da tutti noi, ed è la pressione fiscale, chiaramente in Italia. Perché? Perché ieri la Corte dei Conti ha sentenziato, anzi ricordato un po' quello che a grandi linee sappiamo, ma che insomma è sempre bene risentire, anche perché ci spera insomma che sia poi un intervento in materia fiscale da parte del governo. Se ne parla da anni, però per ora insomma non si è fatto molto. In parole povere, la Corte dei Conti ha confermato un po' quello che già sappiamo, quindi che metà del nostro stipendio se ne va in tasse e contributi. In Italia, il cuneo fiscale in Italia è, conferma la Corte dei Conti, 10 punti superiore a quello che si registra mediamente nel resto d'Europa. Abbiamo un record, siamo primi, una volta ogni tanto. Siamo purtroppo sono sempre quei record che chiunque preferirebbe non detenere, però noi lo deteniamo, e quindi sicuramente c'è ancora molta strada da fare. Questo significa che poco o meno della metà dello stipendio, quindi il 49%, viene prelevato a titolo di contributi ed imposte. Tra l'altro, accanto a questa pressione fiscale, che è tra le più elevate, sono la più elevata dei paesi UE, addirittura il 42,9% del PIL, il totale delle tasse che viene pagato da un'impresa di medie dimensioni testimonia un cuneo fiscale complessivo eccedente addirittura 25 punti, l'onere che invece è affidato a una impresa omologa dell'area UE. Ciò significa appunto che in media la tassazione in Italia è di 25 punti superiori per le imprese. E questo ovviamente è un grosso freno, perché vuol dire che c'è una disparità, no? Tra chi produce in Italia e chi produce da un'altra parte. Evidentemente tutto questo incide e va a peggiorare la situazione. Sì, diciamo certo non aiuta, soprattutto riguardo al filone della lotta all'evasione e all'economia sommersa, che sappiamo che soprattutto gli ultimi governi che sono succeduti cercano di mettere in primo piano questo tipo di lotta. Però è chiaro che quando con una pressione così elevata, con una tassazione così elevata, purtroppo, dico purtroppo non che sia giusto, però purtroppo si fa sì che sia più probabile che un'azienda, un'impresa, comunque un artigiano tenti appunto di evadere, nel senso che... Certo, cerchi una scappatoia, ecco. Un'altra cosa che vorrei dire, e questo sicuramente i lavoratori lo sanno, è il problema appunto che l'imprenditore, quando paga appunto il dipendente, sostanzialmente tira fuori il doppio rispetto a quello che poi si intasca il dipendente, perché appunto metà di quello che elargisce va in tasse. Ora, questo è un grosso problema, perché se riuscissimo a far sì che il datore di lavoro tirasse fuori meno soldi e al dipendente comunque ne arrivassero di più, noi riteniamo che l'economia se ne gioverebbe moltissimo e si potrebbe anche essere rilanciata sotto il punto di vista dei consumi, perché al di là di quello che è appunto il rischio dell'evasione, del sommerso da parte delle imprese, sappiamo benissimo che se il cittadino, se la famiglia potesse avere una disponibilità superiore, chiaramente potrebbe anche spendere di più, e quindi chiaramente ne gioverebbe tutto il sistema economico. Ora, Francesco, noi ne parliamo da un po' di tempo di questa alta tassazione. Il fatto che la Corte dei Conti l'abbia sottolineato è solo, diciamo, un in più. Da tanto tempo si parla di una riforma fiscale che faccia sì che sia meno impegnativa anche la quotidianità delle persone, nel senso che la tassazione è veramente troppo elevata tra tasse dirette e tasse indirette. Notiamo invece con un certo dispiacere che questa materia insomma è tenuta in secondo piano, quando riteniamo che sia una delle priorità, più di altre cose che invece vengono messe in agenda come prioritarie. Sì, sono d'accordo, è proprio vero che se le tasse fossero molto più basse, nessuno andrebbe a cercare di evaderle, perché la fatica di cercare di evaderle non varrebbe la pena. Però quando sono così alte, uno ci pensa due volte, e piuttosto di spendere 300 euro dal dentista gliene dà qualcosa di meno, risparmia subito, no? Quindi c'è effettivamente il vantaggio sia per il dentista che poi per chi ne usufruisce. Ho fatto l'esempio del dentista, ma ce ne sono migliaia di esempi, che non se la prendano la categoria dei dentisti. Ecco, noi Francesco, a tal proposito, ne abbiamo già parlato durante sicuramente la tua trasmissione, però da questo punto di vista, al di là appunto della tassa sul lavoro, notiamo che insomma bene o male paghiamo tasse ovunque, e noi ovviamente come associazione dei consumatori di recente abbiamo contestato più volte l'eccessiva tassazione anche sulle bollette, per esempio, tanto per fare un esempio semplice, nel senso che uno dice la tassazione è molto elevata sul fronte del lavoro, no, è elevata su tantissimi fronti. Noi in questi giorni abbiamo più volte sottolineato il fatto che stanno arrivando delle bollette del gas, per esempio, in cui praticamente gli importi sono composti per la metà di IVA imposte soprattutto accise. Oggettivamente ci sembra che ciò che viene chiesto al cittadino, all'imprenditore, a livello di tassazione sia eccessivamente elevata, anche a fronte poi di quello che viene offerto a livello di servizi. Certo. Non voglio dire che vada tutto male, però sicuramente, ecco, per esempio, faccio un esempio un po', diciamo, utopico, però si potrebbe anche concepire che, visto che paghiamo tutte queste tasse, per esempio i mezzi di trasporto fossero gratis, per fare un esempio, ecco, questo è un esempio un po'... E ne gioverebbe tantissimo l'ambiente, perché allora a quel punto uno fa anche due conti e dice, beh, vado con il pullman, vado con il tram, con l'autobus e lascio stare la macchina. Cambierebbero tante cose, credo. Cambierebbero tante cose, per cui diciamo che l'invito che facciamo anche i nostri, diciamo, politici, per quanto un'associazione come la nostra possa fare pressione nei loro confronti, è quello di mettere in agenda immediatamente appunto una seria riforma fiscale, anche per cercare di normalizzare dei rapporti tra cittadino e politica che ormai sono diventati molto pesanti, nel senso che vediamo che ormai il cittadino non ha nessuna fiducia nei confronti del politico, a volte anche esagera considerando tutti i politici dei fannulloni, dei nullafacenti che prendono soldi per niente. Io credo che se veramente si facesse anche una riforma di questo tipo, credo che aumenterebbe la fiducia dei cittadini nei confronti di chi ci governa. Bene, grazie a Gianluca Codognato dell'Adico, Adico che ritroviamo ovviamente anche lunedì prossimo. Ricordo il sito www.associazionedifesaconsumatori.it. Ciao Gianluca. Ciao Francesco, grazie. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.